relazioni, cioè la sigla della la parola della coscienza, no? È in realtà un termine che pone più problemi di quanti non ne risolva. Per la storiografia italiana così è un po' rimasto fissato da un vecchio libro di Rosario Romeo e l'abbiamo subito un po' pigramente, ma quello che intendevamo ambedue, credo appunto sia stato esplicitato molto bene dalla sua introduzione, era proprio porre il problema della delle forme dell'acculturazione subita, della riflessione su se stessa, dell'appropriazione del nuovo, e qui i problemi sono veramente moltissimi. È veramente molto, molto facile dire Colombo, Vespucci, ecco, dopo scoprono i nuovi mondi, dopodiché ci accorgiamo che tante fatiche di studiosi sulla identità di queste due, sull'attività di queste due grosse personalità sono rese necessarie dal fatto che l'attenzione dei contemporanei non fu minimamente rivolta verso di loro, no? Cioè, una delle forme della recezione è stata anche questa. Diciamo, oggi certamente una scoperta si lega al nome di un individuo e l'individuo è immediatamente noto e tutto quello che si sa di lui viene detto. Ecco, credo che questo sia un piccolissimo esempio di come sia ancora oggi problematico cercare di capire le forme della recezione del nuovo, ecco, l'uso e la rivisitazione dell'antico, la correzione e la polemica sulla validità dell'antico, la sua utilizzazione all'esterno e poi anche naturalmente l'incontro con col nuovo, il vero e proprio processo di acculturazione speculare che la cultura europea deve subire. Quindi è proprio una serie di problemi su cui dovremo lavorare, e la maniera migliore, abbiamo pensato, è quella proprio di ascoltare le relazioni e di discutere relazione per relazione. E quindi io sono particolarmente lieto di aprire la serie delle relazioni dando la parola a Marika Milanesi, che insegna all'Università di Pavia, è studiosa ben nota. Io mi limito a ricordare cose che tutti conoscete, i suoi studi che si situano al centro dei temi di questa settimana vanno dal Filippo Sassetti, che se non ricordo male dovrebbe essere il primo dei tuoi lavori, Filippo Sassetti del 73, ha un volume di sintesi sul primo secolo della dominazione europea in Asia, che è del 76, una raccolta di studi dal titolo problematico e provocatorio, Tolomeo sostituito, e la sua splendida edizione delle Navigazioni e viaggi del Ramusio, un autore che dominerà questa nostra settimana, in particolare domina questa prima giornata, aspettiamo più tardi appunto la relazione di Massimo Donattini. E prendendo spunto dal volume curato da Marika Milanesi, L'Europa delle carte, io avevo pregato appunto l'avevo pregata di parlarci di temi di questo tipo, e lei oggi ce ne presenterà uno, credo particolarmente ghiotto, dal titolo Arsaret Ohanian, Identità o separazione tra Asia e Nuovo Mondo nella cartografia del Cinquecento. La relazione sarà accompagnata da proiezioni. Grazie. Dunque, la relazione sarà fatta soprattutto, devo dire, di proiezioni. Vi prego quindi di avere un po' di pazienza, sarà un po' lunga perché l'illustrazione delle immagini richiede più tempo della normale lettura di una relazione. Le carte che ho portato e che vi mostrerò cercando di illustrarle in base a una serie di criteri che spero risulteranno chiari dal mio discorso, riguardano la rappresentazione del Nuovo Mondo nel XVI secolo, e in particolare un dettaglio, tutt'altro peraltro che irrilevante, di questa rappresentazione, che è la rappresentazione del settore nord-occidentale di quello che noi oggi definiamo continente americano. E in particolare la rappresentazione di questo settore in due modi, che nel corso del XVI secolo si alternano o viaggiano in parallelo, diciamo così, nella produzione cartografica. Un modo è quello di rappresentare questo angolo del tutto sconosciuto, che nessun navigatore ha mai potuto ancora vedere, delle terre americane, come la costa di un continente che si chiude e che ha quindi appunto la struttura insulare, sia pure di grandissime dimensioni, di un continente. L'altra maniera di rappresentare questo settore nord-occidentale del Nuovo Mondo è la sua rappresentazione come una sorta di ponte continentale che riunisce la parte settentrionale del continente americano con la parte nord-orientale del continente asiatico. Nella cartografia del Cinquecento questi due modelli si trovano per tutto il secolo. Quello dell'Asia e dell'America unite domina, ma non è affatto esclusivo. Nella prima parte del secolo, fino al 1560, la rappresentazione invece dei due continenti come terre separate e isolate da un braccio di mare domina a partire soprattutto dal 1560, ma nasce anch'essa all'inizio del secolo, come la precedente. Vorrei proporvi immagini di questi due modi di rappresentare nuovo e antico mondo, cercando di avanzare qualche spiegazione per queste due congetture. Sono ambedue congetture geografiche senza la minima base, diciamo, sperimentale. Nessuno europeo conosce come siano effettivamente queste terre e questi mari. Nessuno ha mai navigato in questo periodo fino a superare la latitudine di 40 gradi nord, sia sulla costa americana sia sulla costa asiatica. A nord di 40 gradi, diciamo a nord del confine, diremmo oggi, tra stato di California e Oregon, nessuno si è mai spinto e nessuno sa che cosa ci sia. Tutto quello che è rappresentato a nord di questa latitudine è congetturale, com'è del resto gran parte della rappresentazione cartografica cinquecentesca per le aree appunto non ancora conosciute di un mondo che già si è enormemente dilatato nell'esperienza, ma non ha ancora raggiunto la completa diciamo completamente la struttura e la forma che le è stata riconosciuta nel corso dei secoli seguenti. Come tutti sapete, per questo settore particolare la conoscenza diretta, la ricognizione dello stretto di Bering, il riconoscimento che America e Asia sono effettivamente separati, viene soltanto nel Settecento. Queste sono le cose che vi mostrerò. Le ragioni per cui i cartografi disegnano in questa maniera le carte, ecco, io cercherò di identificarne con i miei mezzi qualcuna. Vi sarei molto grata se, come storici, voleste aiutarmi a trovarne eventualmente delle altre. E sono molto contenta di poter quindi presentare qui un lavoro che sto facendo e sul quale ho bisogno della consulenza e del parere altrui. A questo punto vorrei cominciare a mostrarvi queste carte. Carte che saranno tutte carte soltanto di linee costiere, per la semplice ragione che carte corografiche praticamente non esistono. E sono tutte carte di origine europea, perché si tratta di una cartografia che non ha nessuna base su una cartografia locale. Del resto la cartografia locale viene un po' usata per le carte cinquecentesche, soprattutto però per le carte portoghesi dell'Asia. Nel caso dell'America, certamente nel Messico in particolare sono state usate delle carte, ma non ce n'è rimasto quasi niente. Quello che vi mostro è la carta di destra. Scusate, da qui non posso vedere se è a fuoco o meno. Ci provo, ma ecco. La carta di destra che è la carta di Cortés di Città del Messico, stampata nel 22 circa, deve avere un'ascendenza locale, ma non ne sappiamo più che tanto, insomma. Cortés la spedisce, poi viene stampata, ma non sappiamo da dove venga. Deve avere qualche fonte messicana, ma appunto è un caso unico. In realtà quello che abbiamo è cartografia puramente europea. Una cartografia europea di cui ora illustrerò, diciamo così, il settore che individua nel Nuovo Mondo o una parte dell'Asia o un'appendice dell'Asia, o comunque che mette in collegamento Nuovo Mondo con Asia, secondo una serie di modelli che nel corso del secolo si vengono affermando e di cui ora vi mostrerò l'esemplificazione veloce. Il primo modello è questo, ahimè poco leggibile perché dovete fidarmi della mia parola se non conoscete già la carta. Questa è la carta di Juan de la Cosa del 1500, la prima carta esistente con il mondo americano. Juan de la Cosa, compagno di Colombo, e in questa carta il mondo americano è rappresentato in gran parte congetturalmente, nel senso che una gran parte delle linee costiere rappresentate non erano ancora state effettivamente esplorate, si conoscevano soltanto di fatto le isole e un breve tratto della terraferma venezuelana. Ma quello che interessa in questa carta e che non si vede è che in basso a sinistra, sotto il Brasile, diciamo così, c'è scritto Oriente, in quello che noi chiameremo Occidente. La carta non rappresenta tutta la superficie terrestre, rappresenta soltanto 235 gradi di longitudine, però mi sembra che proprio questa scritta Oriente voglia dire che Juan de la Cosa ritiene che le terre toccate da Colombo siano la costa asiatica, di essere come del resto riteneva lo stesso Colombo. Quindi Asia, America sono la stessa cosa, America che non si chiama ancora America naturalmente, sono le Indie occidentali scoperte da Colombo o qualche cosa del genere. Torneremo su questo aspetto. Ecco, questo è il primo modello, l'Asia è l'Oriente. Secondo modello, siamo un po' più avanti negli anni, questa è una carta del 1508 fatta da Francesco Rosselli. In questo modello vedete che una parte di quello che noi chiamiamo continente americano, la parte settentrionale, è una appendice orientale dell'Asia. Vedete la continuazione delle terre dall'estremità di destra a quella di sinistra della carta che rappresenta tutta la superficie terrestre questa volta. Queste sono le terre scoperte dai Caboto, da Giovanni Caboto, dai portoghesi, nel settentrione. Poi al centro c'è un gruppo di isole, le isole di Colombo, e a sud, separato completamente dal resto della terra nuova, diciamo così, una grande isola che è l'isola, il Nuovo Mondo di Vespucci, concepita come grande isola legata ancora al sistema asiatico, non come continente a sé, ma separata però. Notate che nel 1508 Colombo aveva già scoperto che non esisteva nessuna separazione, almeno all'altezza di Panama e dell'istmo tra Honduras e Venezuela e Colombia, non c'era nessun passaggio, però nelle carte non sono affatto assunte immediatamente le informazioni geografiche, perché il cartografo spesso non dispone direttamente della fonte o perché, anche se la conosce, preferisce scegliere un'altra ipotesi e rappresentare quindi le terre in un altro modo. Direi che una costante di tutta questa cartografia è appunto l'essere basata su congetture e ipotesi e non immediatamente su quello che noi sappiamo essere stato scoperto effettivamente nel medesimo periodo in cui la carta è stata costruita. Non c'è corrispondenza immediata e diretta tra conoscenza e cartografazione. Questo è, diciamo, il secondo tipo. Il terzo tipo, sempre di rappresentazione di Asia e America collegate, lo possiamo vedere in questa carta. È a fuoco? Per favore, scusate, ditemelo, perché ecco, io da qui la vedo molto male. Questa è una rappresentazione più tarda, il suo modello del 1546. In questo caso il continente americano ha già raggiunto una forma molto riconoscibile per noi, ma è concepito come un'appendice peninsulare di enormi dimensioni del continente asiatico. È una carta di Giacomo Gastaldi, autore di cui parlerò anche troppo ampiamente. Questi sono i tre modelli che si susseguono nel corso del secolo. Il primo, quello che abbiamo visto di Juan de la Cosa, è sostanzialmente un modello colombino. Colombo è convinto di essere arrivato alle isole che costeggiano il continente asiatico. E questa sua idea è condivisa certamente da Giovanni Caboto, anche Caboto è convinto di essere arrivato in Asia. E probabilmente anche da Amerigo Vespucci, almeno nella prima parte della sua esplorazione. Di carte di Colombo dirette, come credo sappiate, non ne abbiamo. L'unica cartografia di origine colombina che possediamo è rappresentata da questi schizzi che sono già cinquecenteschi, del primo decennio del Cinquecento, che si trovano nella miscellanea Zorzi e che sono stati fatti da un erudito veneziano, Alessandro Zorzi, sulla base pare di informazioni di Bartolomeo Colombo. Qui si vede abbastanza bene l'idea che Colombo si è fatto nei suoi viaggi della posizione e struttura del Nuovo Mondo. A nord abbiamo l'Asia, che si presenta a noi con l'aspetto dell'Honduras, il promontorio honduregno, che Colombo aveva effettivamente esplorato, la cui costa aveva esplorato. Poi c'è un istmo, Colombo viene informato navigando lungo l'istmo di Panama che esiste un mare dall'altra parte. E al di là, a est di quest'istmo c'è l'Atlantico, a ovest c'è l'Oceano Pacifico, che non ha ancora questo nome, per Colombo è Oceano Indiano. A sud di questo istmo c'è questo mondo nuovo di grandi dimensioni che Colombo ha cominciato ad esplorare, ha scoperto le foci dell'Orinoco, ha visto questo enorme fiume, quindi si è reso conto che si tratta di terre di grandissime dimensioni. Si tratta quindi di una appendice, quella che poi Rosselli rappresenterà come mondo separato, di un'appendice nuova, non conosciuta, ma che fa parte del mondo asiatico. Quindi dal nome asiatico, dal nome Asia, si passa senza soluzione di continuità al mondo nuovo. Va bene così? Ecco, possiamo capire, ammesso che la cosa crei problemi, la immagine precedente vedendo questa carta tolemaica, questa è un'ecumene tolemaica normale disegnata da Nicolò Germano nell'82 a Ulm. Vedete la terra estrema che si trova a sud-est dell'Asia, quella che si congiunge con la terra incognita a sud dell'Oceano Indiano. Ecco, Colombo era convinto di essere arrivato sulla costa orientale, non rappresentata da Tolomeo, di questa terra estrema e che la terra da lui poi vista, questo mondo nuovo, fosse un pezzo sostanzialmente di questa grande terra sconosciuta che Tolomeo metteva a sud e a est dell'Asia. Dunque qui vediamo un dettaglio della carta di Juan de la Cosa, ma temo che anche qui il nome Oriente, che come dicevo prima contrassegna la parte meridionale di questa carta, non sia visibile, è ormai quasi cancellato sulla pergamena, che è molto sciupata. Le macchie rosse sono strappi naturalmente nella pergamena medesima, mentre già è rappresentata con notevole finezza la parte centrale con le isole. Dunque, qui abbiamo una rappresentazione di Tolomeo modificato. Anche qui si può, che è una rappresentazione del circa 1490, qui si può vedere appunto ancora meglio quella terra all'estremo confine orientale che Colombo credeva di aver raggiunto. Si tratta di qui è stata tagliata la parte meridionale della terra incognita, le è stata attribuita una costa orientale. Su quella costa orientale estrema Colombo crede di essere arrivato, ma sono carte, ripeto, che non hanno niente a che vedere direttamente con Colombo. In realtà la più colombina di queste carte è questa carta di Piri Rais, carta turca del 1513, che rappresenta le scoperte di Colombo e quelle di Vespucci. Piri Rais sostiene di averla disegnata, e probabilmente è vero, sulla base di carte anche fatte da Colombo, ma anche di carte portoghesi. Qui di nuovo il Nuovo Mondo viene rappresentato come una unità con delle isole, ed è un'unità, Piri Rais non lo specifica, ma se ha seguito davvero le idee di Colombo è sempre un'unità asiatica e non una terra separata. Questo modello di Piri Rais non è però quello dominante negli anni 10 del secolo. Negli anni 10 del secolo il modello dominante è piuttosto quello che vediamo in questa carta di Visconte di Maggiolo. La proiezione polare, qui la fotografia ne ritrae solo una parte. La proiezione polare rende un po' difficile la lettura, ma potete vedere chiaramente come la parte settentrionale, Groenlandia, terra di Bacalaos, dell'America sia legata col continente asiatico, poi ci sia una parte centrale insulare e una parte meridionale isolata, che è il mondo nuovo. Quello che abbiamo visto in Francesco Rosselli prima. Perché, uno può domandarsi, questo tipo di rappresentazione, che raccoglie particolare favore presso non solo il Colombo, ma presso la corona spagnola. In quest'epoca, come vedremo poi, la teoria di Colombo che il Nuovo Mondo sia l'Asia è stata già ampiamente discussa. Una parte della cartografia, in particolare quella portoghese, rappresenta il mondo nuovo in un'altra maniera. La corona spagnola però ha evidentemente interesse a mantenere questo tipo di rappresentazione, che implica appunto che il nuovo mondo sia asiatico. Un interesse che è, direi, sostanzialmente politico. Permette cioè al re di Spagna di dichiarare di avere a sua volta un piede nel mondo asiatico. C'è una competizione tra corona spagnola e corona portoghese anche su questo argomento. La ultima rinuncia degli spagnoli a territori asiatici è del 1527, con la cessione dei diritti sulle Molucche. Prima gli spagnoli non hanno affatto rinunciato alla possibilità appunto di possedere pezzi di Asia, e anche dopo il 27 del resto mantengono il controllo sulle Filippine, che sono tuttavia un arcipelago asiatico. Probabilmente quindi al re di Spagna piace l'idea di possedere, di avere toccato, che i suoi marinai abbiano toccato e quindi preso possesso di una parte dell'Asia. Oltre a tutto ciò permette loro anche di inserirsi in quella crociata contro l'Islam, sostanzialmente visto come religione asiatica per eccellenza, di cui il re del Portogallo fa una delle proprie glorie e una delle motivazioni del suo intervento nel mondo orientale, nel mondo dell'Oceano Indiano. Del resto lo stesso Colombo considera la crociata come una delle giustificazioni morali e religiose delle proprie imprese. Questo direi come punto di vista politico che può aver rafforzato questa visione del nuovo mondo come Asia. D'altra parte, da un punto di vista cosmografico, questa visione è notevolmente agevole da accettare. non comporta alcuna rottura con la tradizione. L'ecumene resta diviso in tre parti, Europa, Africa e Asia. Non viene inserito un quarto elemento o una seconda ecumene addirittura. Non c'è nessuna difficoltà ad accettare che i confini dell'Asia siano modificati. Sono stati modificati negli anni precedenti anche i confini dell'Africa, rispetto a come li aveva descritti Tolomeo, senza che questo abbia creato nessun problema, né tantomeno religioso e nemmeno, diciamo, geografico o scientifico. Si accetta il cambiamento all'interno di una struttura che rimane intatta senza nessuna difficoltà. Si correggono i dati, ma la struttura rimane sempre la medesima. Ed è una struttura del resto che in questo periodo è ancora facile da mantenere. Quello che per noi è il momento di grandissimo cambiamento nella concezione della Terra, cioè la navigazione di Magellano, che è il primo effettivo riscontro della sfericità della Terra, prima soltanto assunta come dato di speculazione, ma mai provata direttamente. Ecco, anche la navigazione di Magellano non modifica necessariamente l'idea che l'ecumene sia, con confini modificati, tuttavia il medesimo che l'antichità aveva concepito. Qui lo vediamo rappresentata in questa carta, che è del 1540, quindi molto tarda, vediamo rappresentata la rotta di Magellano in un contesto in cui l'Asia viene concepita come separata dal Nuovo Mondo, ma questo non ci riguarda in questo momento. Quello che volevo far notare è che la navigazione di Magellano non dà al Nuovo Mondo un confine stabilito. Magellano in realtà tocca del Nuovo Mondo soltanto un breve tratto della costa argentina e della costa cilena e lo stretto. Quello che prova la sua navigazione è che se l'Asia e l'America sono collegate, possono esserlo soltanto a nord dell'equatore e non a latitudini più meridionali. Magellano passa sull'equatore, attraverso l'Oceano Pacifico, a latitudini equatoriali. Dal punto di vista del tema che mi interessa, Magellano non porta nessuna sostanziale prova né in una direzione né nell'altra. In effetti, tra l'altro, nel 500 il viaggio di Magellano non è mai concepito come un viaggio americano. È un viaggio il cui obiettivo sono le Molucche, le isole delle Spezie, è un viaggio sostanzialmente asiatico, la sua rotta passa per l'America, ma non è assolutamente considerato un viaggio che dia qualunque illustrazione al mondo americano, e così è in effetti. Quindi siamo in un momento in cui anche con le grandi navigazioni non si può portare una risposta a questo problema se l'Asia e l'America siano o no una cosa sola. Negli anni seguenti proseguono, siamo oramai negli anni 20, proseguono le navigazioni spagnole lungo la costa americana, il profilo della costa americana è sempre più ampiamente rappresentato, soprattutto nelle carte spagnole. Qua ne vediamo una che è all'incirca del 1530, stampata nel 34 a Venezia, è tratta dalla carta ufficiale spagnola, il Padron Real. Vedete che ovviamente le conoscenze si limitano alla costa orientale e a un breve tratto della costa occidentale. E in generale, in tutte queste carte spagnole, nel Padron Real, nella carta ufficiale spagnola, questa purtroppo è illeggibile, ma non c'è mai una rappresentazione di ciò che potrebbe esserci nella parte nord-occidentale, proprio perché non è stata ancora esplorata. Questa è la carta di Ribeiro del 29, ma è disegnata così finemente che è praticamente impossibile riprodurla in maniera leggibile. Queste esplorazioni dunque portano lasciano la situazione com'è per quel che riguarda il collegamento con l'Asia, anche se i viaggi di Verrazzano all'inizio degli anni 20 portano a nuove ipotesi su come sia configurata la costa occidentale del mondo nuovo, quella costa che non si conosce. Ma Verrazzano ritiene di avere scoperto un mare a ovest dei banchi della North Carolina, sono le lagune costiere al di là del cordone litoraneo, crede di aver visto il mare del sud dall'altra parte, e quindi alcune carte come questa e quella che vedremo dopo rappresentano questo mare. Ripeto, però, questo mare non risponde a sua volta agli interrogativi relativi ai rapporti con l'Asia. Ecco l'altra carta che rappresenta questo mare. In realtà in questi anni, siamo tra gli anni 20 e gli anni 30, chi continua a ipotizzare una relazione tra il Nuovo Mondo e l'Asia lo fa soltanto per ragioni, diciamo così, che non hanno niente a che vedere con la cosmografia. Alcune di queste ragioni sono sostanzialmente politico-cortigiane. È il caso di una carta che purtroppo non posso farvi vedere, che non sono riuscita a procurarmene una copia, ed è una carta tedesca, quella di Kaspar Vogel, che compila tra il 1536 e il 1545 una serie di globi e di carte in cui il nuovo mondo settentrionale, il Messico recentemente scoperto e conquistato da Cortés, è identificato immediatamente con la Cina di Marco Polo, con la sovrapposizione del mondo messicano e della città capitale Messico al mondo cinese descritto da Marco Polo. La città di Messico, di Tenochtitlan, è identificata con Quinsay, la città cinese descritta da Marco Polo, città di ponti e di canali, grande città popolata, ricca, eccetera, che appunto Polo ha descritto. È una ipotesi che può essere e viene immediatamente distrutta in termini matematici da un rapido calcolo di longitudini, ma che viene formulata con intenti appunto cortigiani, come risulta dalla decorazione, dall'iconografia della carta di Vogel, che è dominata dall'immagine di Carlo V che domina i mari ed è il sovrano che domina, veramente il sovrano su cui, anticipando la formula, su cui regni non tramonta mai il sole, perché il suo oriente è anche il suo occidente. È un sovrano per il quale i punti cardinali si sono identificati e che domina quindi sia l'Asia che l'Europa, che l'America, sovrano universale. Tutto il mito di Carlo V è rappresentato in questa carta. Ma è, dicevo, un'ipotesi che viene distrutta molto velocemente. E non è neanche di Vogel, tra l'altro, era già stata presentata. No, questa non c'è. Scusate, sto cercando. Ecco, era già stata formulata in precedenza, fino dagli anni 20 e 30, da Horace Finet e prima ancora da Franciscus Monachus. Che appunto c'è una perfetta identità tra Cina e Messico, non c'è bisogno neanche di ricorrere al promontorio, eccetera. Guardando la toponomastica, qui non si legge, purtroppo si vede che subito a nord di Messico ci sono Pechin, Cambaluc, eccetera, cioè le città del Catay Poliano. Siamo quindi in un'ipotesi che Vogel accetta da altri prima di lui e che adatta ai suoi intenti di glorificazione del suo imperatore. Dicevo, bastano pochi calcoli per smentire questa ipotesi, calcoli di longitudine, come per esempio quelli che fa Guillaume Postel, una curiosa e interessantissima personalità di geografo, oltre che di mistico, di ispirato, eccetera, della metà del secolo, geografo che lavora molto a Venezia verso la metà appunto del secolo, contribuisce probabilmente, anche se non si sa in che misura, al lavoro del Ramusio e di Giacomo Gastaldi e così via, comunque ottimo cosmografo e cartografo, il quale scrive che Foppel ha scritto per adulare il suo sovrano: tot errata quot vocabula, ha scritto tanti sbagli quante parole ha scritto, e in particolare quando ha identificato l'Asia con l'America, eccetera. Mentre dice le Indie, l'America e l'Asia sono separati da più di 90 gradi di longitudine. Ipotesi facile quindi da smentire. D'altra parte a Carlo V arrivano da parte dei suoi sudditi vari suggerimenti cartografici di segno molto diverso. Uno è di questo tipo, di tipo cortigiano, eccetera, ma poi gli arrivano anche suggerimenti più fondati sull'esperienza. Gli arrivano vere e proprie carte fatte da naviganti, dai piloti, in particolare dai piloti della Casa de Contratazione, i quali piloti però si astengono regolarmente, come notavo già prima, dal pronunciarsi sul collegamento tra America ed Asia. Possiamo supporre che personalmente siano piuttosto favorevoli all'idea di un nuovo mondo come separato da quello asiatico, ma in ogni caso non abbiamo un loro parere. D'altra parte l'ipotesi è necessaria nella rappresentazione cartografica del mondo, e lo è in particolare proprio per gli studiosi che non vanno direttamente nei luoghi, non cartografano direttamente le terre, ma raccolgono il materiale preparato da altri e cercano di inserirlo in uno schema generale, in un'immagine complessiva della terra, confrontandolo con l'immagine degli antichi, se necessario, quasi sempre questo viene fatto, e cercando di costruire un insieme, appunto, da una serie di rappresentazioni separate. D'altra parte, le motivazioni di questi studiosi contano moltissimo nel disegno che il loro lavoro produce. E come voi sapete, in particolare, in questo secolo così fortemente permeato di religione in tutte le sue attività, l'interesse religioso è molto importante anche negli studi di geografia e di cosmografia. Interesse religioso che può essere così sotto vari segni, interesse religioso, etico, politico, eccetera, può essere di vari segni, dall'aspirazione all'evangelizzazione che troviamo in parecchi studiosi che in questo secolo, sia da parte cattolica che da parte riformata, che si interessano al tema delle scoperte. Da Guillaume Postel, dai gesuiti, a Simone Grineus, grecista e riformato, che pure fa la prefazione a una importante raccolta di navigazioni che si chiama Novus Orbis nel 1933. Interesse per l'evangelizzazione, necessità anche di non ammettere degli strappi tra la tradizione cristiana e la tradizione classica e l'esperienza moderna, interesse semplicemente per scoprire le origini di una parte dell'umanità che fino a questo momento era stata ignorata, eccetera. Cioè, ci sono tanti temi che portano, cosa che non farebbero mai oggi, a una rappresentazione cartografica, e temi ai quali la rappresentazione cartografica si ispira in qualche maniera. È per esempio evidente che ci sia una istanza monogenista, un'istanza di collegare e anche un'istanza di collegare l'antico col moderno in un continuum che non sia mai interrotto dai giorni della creazione all'epoca nostra, in una carta come quella del 1571 che viene pubblicato nella Bibbia Poliglotta di Benito Arias Montanus. Ecco, questa carta che illustra l'appendice è concepita come diciamo, fondo, come base cartografica per illustrare la teoria di Montanus sulla diffusione delle tribù di Israele attraverso tutta la terra, quindi per illustrare quella teoria del popolamento del Nuovo Mondo da parte degli ebrei che, come sapete, ha vasto corso in questi anni. Ed è una carta che raccoglie l'ipotesi di un nuovo mondo collegato fisicamente da un ponte continentale con il vecchio mondo. Ci sono sulla carta dei piccoli numeri, ognuno dei quali contrassegna la tribù di Israele che si è stabilita in quel luogo. Questa carta ha origini più interessanti di quanto non possa sembrare a prima vista. Come struttura, come forma, disegno dei continenti, riproduce esattamente una carta stampata 10 anni prima a Venezia, nell'edizione della Geografia di Tolomeo, stampata da Vincenzo Valgrisi per la cura, almeno così si dice nel testo, di Girolamo Ruscelli. Ora, questo testo tolemaico, con ogni probabilità e secondo perlomeno la testimonianza di Guillaume Postel, non è opera del Ruscelli, che del resto non è assolutamente né geografo né cartografo e per di più dichiara di non aver fatto le carte, è opera dello stesso Postel, il quale Postel lavorava in quegli anni a Venezia, ma avendo già scontato alcuni anni di carcere presso il Sant'Uffizio, ripeto, a Roma, non era in grado di firmare opere e avendo tutte le sue opere all'indice non poteva firmare alcuna pubblicazione. Valgrisi probabilmente aveva quindi, anzi sicuramente, aveva fatto fare una prefazione a Ruscelli e aveva stampato la geografia preparata dal Postel sotto il nome di Ruscelli. Nel 71 Postel collabora con la Biblia poliglotta di Arias Montanus, col quale è in corrispondenza e che entra probabilmente nel 72, nella stessa setta dei Fratelli dell'Amore, di cui faceva parte Postel, di cui faceva parte Plantain, lo stampatore della Bibbia, e di cui faceva parte Abramo Ortelio, il geografo, con cui pure il Postel è in strettissimi rapporti. E tra l'altro questa, nell'appendice alla Bibbia che questa carta illustra, in un trattato che si chiama Faleg sive de gentium, scusate ci vedo male, de gentium sedibus primis orbisque terre situ, questo trattato firmato dal Montanus, sono espresse le idee che Guillaume Postel negli anni precedenti ha già elaborato nei suoi trattati, che sono appunto le idee non solo del popolamento del nuovo mondo da parte delle 10 tribù perdute di Israele, ma anche della collocazione nel Perù del regno di Ofir, presso il quale le navi di re Salomone erano andate a prendere l'oro. Siamo alle origini di quel mito del Perù che è stato poi illustrato da Antonello Gerbi in epoca relativamente recente, un testo è stato pubblicato poi pochi anni fa. Un mito del Perù che nel lavoro di Postel ha origini ovviamente bibliche, tutto praticamente nel lavoro di Postel viene riportato all'antichità biblica. Questa carta dunque è una carta postelliana a mio avviso, e ne sono praticamente certa, riflette questa opinione del mondo, questa opinione cioè del popolamento del mondo, e fornisce al popolamento stesso un comodo itinerario terrestre. Uno dei problemi che si opponevano all'idea appunto di un nuovo mondo popolato dagli ebrei eccetera era o anche da altri popoli europei, era proprio la difficoltà tecnica della navigazione tra vecchio e nuovo mondo, la navigazione oceanica. Ora Postel non ha problemi in questo senso, perché la sua idea è che i figli di Noè e coloro che hanno popolato il vecchio mondo e il nuovo mondo fossero in parte almeno dei giganti, fisicamente dei giganti, e comunque dotati di possibilità anche di spostamento, eccetera, superiori a quelli dei moderni. Altri autori dell'epoca, che ritengono, come Giovanni Battista Ramusio, che le possibilità di navigazione degli antichi fossero più limitate di quelle dei moderni, dal fatto che gli antichi, per esempio, non possedevano la bussola, ponevano seri problemi, seri dubbi su questa possibilità di navigazione in epoca così antica. E in più, naturalmente, c'era il problema del trasferimento degli animali nel Nuovo Mondo. Ma di questo Postel non si occupa. Comunque questa tesi, questa carta appunto sostiene questa tesi del popolamento monogenica e ebraica del popolamento del Nuovo Mondo. La sua base è questo ponte continentale a nord del Pacifico. Ed è un ponte continentale che nella forma in cui è stato qui rappresentato ha alla sua origine una carta che è ancora più vecchia, ed è una carta, non so perché l'ho messa qui, questa è la Tartaria di Ortelio, devo tornare indietro, scusate. Ed è una carta che abbiamo già intravisto all'inizio, ed è la carta del Gastaldi del 1546. Oh. Ecco, questa carta, che qui è rappresentata in una versione, no, va bene, in una versione del 50, perché la carta del 46 è molto difficile da riprodurre, molto fine di tratto, eccetera. Questa carta rappresenta appunto l'idea che si aveva a Venezia a metà, verso la metà, nella fine della prima metà del Cinquecento, sul collegamento tra Asia e Nuovo Mondo. Ed è una carta di Giacomo Gastaldi in cui c'è questo ponte continentale a settentrione di 40 gradi nord. L'Asia e l'America sono distinte, ma una regione intermedia si trova tra le due, ed è probabilmente questa regione intermedia quella Tartaria estrema, quella zona di Belgian, secondo gli scritti, uno scritto armeno del XIII secolo, dal quale provengono Cinghis Khan e tutti i suoi, diciamo, tutti i suoi seguaci, e che vengono a invadere poi l'Europa. In questa regione il Gastaldi, già nel 46, ha collocato un toponimo che purtroppo non è leggibile qua per ragioni di distanza, ed è il toponimo Arsarot, che ci riporta di nuovo a Guillaume Postel e ai suoi lavori di cosmografia religiosa, diciamo così. Arsarot è una citazione biblica, Eretz Aheret, o Aheret, scusatemi, non so l'ebraico, l'altra terra nella quale sono stati esiliati i figli di le 10 tribù superbe di Israele. Questa terra, questo nome ebraico è l'unico nome ebraico che compaia, o biblico comunque, ho riferito all'antichità, che compaia in una carta che per il resto è basata esclusivamente su informazioni moderne. Ora, questo toponimo Arsarot viene usato anche da Guillaume Postel nella grafia Arsaret in vari suoi trattati geografici, scritti un po' dopo, per la verità, la pubblicazione di questa carta, negli anni 50, fin dall'inizio degli anni 50. È la regione di origine dei turchi, secondo lui, e ne parla più di una volta. Naturalmente la tentazione di attribuire al Postel, che ripeto fu a lungo a Venezia e fu in rapporti sicuri con Giovanni Battista Ramusio e con il Gastaldi, la tentazione di attribuire al Postel questo toponimo, quindi il suggerimento a Gastaldi di una ipotesi biblica alla base della sua cartografia del Nord America, è abbastanza forte. Purtroppo né io né Massimo Donattini, che da anni scava molto meglio di me nella vicenda del Ramusio e dei suoi collaboratori, siamo mai riusciti a trovare un appiglio sicuro che ci dica che il Postel era in contatto con loro all'epoca in cui la carta è stata scritta, gli è stata fatta, a meno che la datazione stessa della carta non sia in realtà più congetturale di quanto non sembri in precedenza. Quindi è impossibile in questo momento dire se effettivamente questa carta sia, questo toponimo e quindi anche l'ispirazione della carta del ponte continentale eccetera siano gastaldini oppure postelliani. D'altra parte Postel, ripeto, non aveva grande interesse a fornire ai suoi ebrei in movimento un ponte terrestre, era convinto che potessero benissimo anche navigare, quindi non insiste nei suoi testi sulla necessità di un ponte continentale. Anzi, poi, quando stamperà a sua volta una carta del mondo nel 78, non rappresenterà questo ponte continentale nemmeno. Per cui in realtà questa ipotesi in ambiente veneziano non si sa esattamente da quale, da che cosa provenga, se da semplicemente l'imitazione di una cartografia centroeuropea precedente o da idee religiose di chi ha costruito queste carte. Questo toponimo di Arsaroth, o meglio di Arsareth, compare di nuovo in una carta che invece è di sicura ispirazione postelliana, ma che tiene anche conto, anzi deriva, dalle carte gastaldine. Ed è quella carta di Ortelio che era finita prima sotto i nostri occhi. Eccola, purtroppo piuttosto buia. Questa è la carta della Tartaria che Abramo Ortelio, il quale deriva le sue carte dal Gastaldi ed è amico e compagno di fede di Postel, disegna appunto della Tartaria Magna, cioè del nord-est dell'Asia, nel 1500, mi pare 70. Sì, credo che fa parte del teatro, ma è del 70, comunque in quegli anni è stata fatta. Qui non compare il ponte continentale. Ortelio ha già adottato la separazione tra Asia e Nuovo Mondo, che vedremo tra un momento, ma compare invece ancora il toponimo Arsareth nella versione postelliana. Mi dispiace, non ho potuto preparare materiale migliore, me ne scuso. Ma qui appunto la derivazione è sicuramente postelliana, o almeno la conferma. D'altra parte, in questa carta vediamo introdotto quello stretto di Anian, che è l'altra, esemplificazione del modo di rappresentare l'Asia e il Nuovo Mondo nel Cinquecento. Quello stretto che nelle carte del Gastaldi dal 1560 separa ciò che lo stesso Gastaldi aveva unito nella sua cartografia precedente. Ma questo stretto, prefigurazione assolutamente congetturale e ipotetica dello stretto di Bering, è soltanto, a mio avviso, una sorta di soluzione di compromesso tra una serie di istanze di varia origine, di vario segno, che erano tutte importanti per un cartografo di metà secolo nella rappresentazione del Nuovo Mondo. Istanze, teorie e ipotesi che risalivano, come l'ipotesi precedente, all'inizio del Cinquecento. Risalivano però non al mondo colombiano, come l'idea del nuovo mondo legato all'Asia, bensì al mondo portoghese. Fin dall'inizio i portoghesi rifiutano l'idea di Colombo di aver raggiunto l'Asia. I portoghesi sostengono che l'Asia è stata raggiunta, Colombo non ha raggiunto l'Asia, ma delle isole atlantiche. Un nuovo gruppo di isole, dopo le Azzorre, dopo Madeira, dopo le Canarie, dopo Capoverde, un nuovo gruppo di isole atlantiche. E che il re di Spagna non ha messo piede assolutamente nel mondo asiatico. Quando si scopre che al di là di queste isole, che vengono chiamate Antille, non a caso Antiglia è un'isola, una delle isole atlantiche ipotetiche che si aspettava di trovare, già chiamare Antille, infatti lo fanno i portoghesi, le isole centroamericane significa dare loro una matrice esclusivamente atlantica e nessuna relazione con l'Asia. Infatti gli spagnoli non hanno mai chiamato Antille queste isole, le chiamano Indie, Indie occidentali. Quando appunto si scopre anche il continente, i portoghesi lo rappresentano in questa maniera. Questa è la carta di Cantino, 1502, ed è la copia di una carta portoghese fatta a Lisbona. Vedete che l'Asia a Oriente è finita, c'è un confine ipotetico ma fissato del mondo asiatico a Oriente. Il confine del mondo americano a Occidente non è stabilito, ma essendovi appunto un confine dell'Asia a Oriente, è evidente che il mondo americano ne è separato. Ne sono rappresentati solo ancora alcuni pezzi, quelli noti fino a questo momento, ma l'idea della separazione è immediata e drastica. Anzi, per stabilire ancora di più che di questo mondo separato dall'Asia e che appartiene soltanto in parte, diciamo, all'emisfero asiatico, è messa in evidenza anche la Raya. È un discorso un po' lungo che non forse porterebbe via troppo tempo a fare, ma c'è questa, la separazione tra i due emisferi, diciamo quello spagnolo e quello portoghese, ha anche dei forti riflessi sulla cartografia, comprese anche delle falsificazioni cartografiche. In questo caso i portoghesi ascrivono al proprio emisfero anche tutta la costa a sud del Brasile, vedete, spostata verso Oriente. Ed era una falsificazione conclamata, addirittura Postel la usa come una specie di luogo comune quando paragona a un certo punto le falsificazioni fatte da Tolomeo nelle sue carte a quelle fatte dai portoghesi, erano proverbiali, diciamo così. Così pure come viene spostata più a oriente del dovuto quella terra settentrionale, quella specie di isola che poi sarebbe il Labrador, le terre scoperte da Caboto e da e dai portoghesi all'inizio del Cinquecento. Cercano di dare insomma, agli spagnoli il pezzo più piccolo possibile di queste nuove terre e comunque le rappresentano come isolate dal mondo asiatico dell'Oriente. Questo tipo di carta attraverso la carta di Caverio, che come struttura è analoga alla precedente degli stessi anni, passa nella rappresentazione di Martino Walser-Müller, notissima e fondamentale naturalmente per la nascita del nome America. L'idea di Walser-Müller è un'idea portoghese, il Nuovo Mondo nel 1507. Il Nuovo Mondo è una terra a sé, si vede anche meglio in un'altra proiezione, ecco, nel cartiglio che rappresenta Vespucci, vedete proprio l'Asia da una parte, il Nuovo Mondo separato, l'isola di Zipangu, il futuro Giappone in mezzo tra le due terre. È un'idea che lo stesso Walser-Müller abbandona già nel 1513 e lo fa perché ha a disposizione un numero maggiore di fonti rispetto al 1507 e non è più in grado di essere certo che l'America sia un mondo separato. E infatti nel 13 non si pronuncia più sull'eventuale indipendenza del Nuovo Mondo. Rappresenta una linea costiera e basta, non ne parla più oltre. Siamo sempre nella atmosfera comunque nell'opinione portoghese. Opinione portoghese secondo la quale, riassumendo, Colombo ha scoperto una o più Antillias, isole quindi atlantiche, che si trovano agli antipodi, quelli almeno definiti da Isidoro di Siviglia, anche se i matematici ovviamente protestano che gli antipodi dell'Europa non sono a 90 gradi dall'Europa ma a 180 gradi dall'Europa, e costituiscono la quarta pars mundi. Entra in gioco il quarto continente. idea che, non, che viene sembra accettata molto favorevolmente dai piloti e dai cartografi nautici, mentre piace meno, diciamo, ai cosmografi e ai teorici. L'idea comunque che il re di Spagna e Carlo V continuano a accettare più favorevolmente in questi anni è l'altra, è sempre quella dell'Asia, come, dell'America come parte dell'Asia, per quelle ragioni politiche, immagino, cui accennavo in precedenza. Tant'è vero che anche le opinioni di Oviedo e di Gomara, che il Nuovo Mondo sia un'area isolata, sia un continente, colonizzato dagli spagnoli in età antica secondo Oviedo, la teoria di Espero, re di Spagna, conquistatore del Nuovo Mondo, quindi Carlo V è erede dei diritti su di esso, la teoria di Gomara, per cui il Nuovo Mondo era collegato all'Europa da Atlantide, che poi è sprofondata dando luogo all'Oceano Atlantico, non sembrano ricevere particolare favore. Quello che è interessante semmai è notare che a formulare queste ipotesi di nuovo mondo separato siano persone che conoscono molto bene il Nuovo Mondo. Oviedo, che ci ha vissuto e lo ha studiato, Gomara, che ha fonti estremamente importanti come sono i Cortés. Cioè il Nuovo Mondo è visto come continente, come parte dell'Asia sostanzialmente da chi ne ha un'idea esclusivamente libresca. Chi lo conosce, chi ne ha studiato la fauna, gli abitanti, direi in particolare la natura, quindi gli animali, le piante, eccetera, riconosce molto presto, siamo negli anni 30, che si tratta di un'altra cosa rispetto all'Asia. Gli riconosce un'individualità che verrà poi confermata da Acosta alla fine del secolo in termini definitivi, anche se Acosta, come tutti gli altri, non ha una prova della separazione, ma sostiene che il Nuovo Mondo è un nuovo mondo a parte. Vi risparmio delle teorie intermedie sulle possibilità che in realtà Tolomeo avesse volontariamente cancellato dalle sue carte il Nuovo Mondo per fare un dispetto a Marino di Tiro, che invece aveva giustamente stabilito il confine dell'Asia alla latitudine delle isole scoperte da Colombo. Tolomeo diminuisce le dimensioni delle Cumene in longitudine rispetto a quelle di Marino di Tiro, diminuisce di 50 gradi. Secondo il solito Postel, in realtà questo venne fatto perché Tolomeo voleva cancellare la memoria di Marino. In realtà Marino di Tiro aveva ragione, la sua parte più orientale delle Cumene dell'Asia era in realtà l'America. Ma Tolomeo l'ha ristretta, ha fatto diventare l'Oceano Pacifico solo un golfo asiatico e ridotto quindi tutta la ridotto la grande conoscenza che gli antichi avevano del mondo a una conoscenza più ristretta, che è quella che si è trasmessa a noi. Questa idea di una conoscenza che si è ristretta è abbastanza importante nella cartografia di questo periodo, ma soprattutto nella speculazione geografica, diciamo. Non voglio soffermarmi su un tema che è tuttavia a mio avviso molto interessante. Diciamo che sostanzialmente in questo periodo ci sono due atteggiamenti contrapposti anche tra gli studiosi di geografia e quindi anche produttori diretti o indiretti di carte. Uno è quello, diciamo, classico, secondo quello degli umanisti, secondo i quali il mondo antico ha avuto una vasta e notevole conoscenza della Terra, ma tuttavia inferiore a quella dei moderni. E peraltro però questa conoscenza della Terra era sempre superiore a quella che si è avuta nei secoli bui, per cui il ritorno alla geografia classica è comunque importante, se non altro per ricostruire un itinerario dal passato al presente, e ci può fornire una serie di elementi molto importanti anche per il riconoscimento del mondo come è fatto adesso, soprattutto per le aree non note. Nella carta di Ortelio che vi mostravo prima ci sono, oltre alle informazioni di Marco Polo sulla Tartaria e alle speculazioni di Gastaldi, anche una serie di ipotesi di Plinio sulla forma del nord-est dell'Asia. Questi umanisti, tra cui Ramusio per esempio, pensano che, questi legati alla cultura classica diciamo, pensano che quindi lo studio dei classici sia lo studio di un momento molto importante della cultura umana, anche se il tempo presente ha superato le loro conoscenze geografiche. Autori invece come Postel, filo ebraizzanti, legati a, soprattutto alla cultura biblica, quelli che cercano di ritrovarsi nella cultura biblica, non accettano questo punto di vista. Per loro la conoscenza della terra che avevano i classici è già una conoscenza molto diminuita rispetto alla conoscenza che della terra avevano i figli di Noè. Il massimo momento di possesso, di padronanza della terra e di conoscenza è quello che si ebbe subito dopo il diluvio universale, quando per l'appunto i figli di Noè occuparono e ripopolarono tutte le parti del mondo, nuovo mondo compreso. Quel nuovo mondo che, sempre secondo Postel, è stato ripopolato da Sem, che proveniva dall'Asia, e da Yafet, che è anche Atlas, che è anche Ercole, che proveniva dall'Europa. Quindi una navigazione attraverso il Pacifico, oppure un attraversamento del ponte continentale dall'Asia, una navigazione attraverso l'Atlantico dall'Europa per occupare le due rive del nuovo mondo. Il periodo intermedio tra queste imprese di giganti, che sono stati anche i primi grandi geografi, perché Atlas, che è Yafet, è stato anche il primo geografo, e l'epoca presente, è stato un periodo di diminuzione delle conoscenze. Quindi in realtà lo studio dei geografi antichi è dopo tutto solo lo studio di una fase in cui il mondo era particolarmente poco noto e quindi perde di peso rispetto al valore che gli danno invece gli umanisti. Questo riferimento ad Atlas e a Yafet, col quale chiudo poi il discorso, è importante perché, guarda caso, il primo atlante moderno, quello di Mercatore, si chiama Atlas, e non è l'atlante, come tutti sanno, non è l'atlante il gigante che porta sulle spalle l'orbe celeste, è Atlas, primo grande geografo, che è anche Attalus, che è anche Italus, che è anche quindi il primo colonizzatore dell'Italia, che è anche Yafet, figlio di Noè. In fondo, questa prima rappresentazione, organica del mondo, quale i moderni lo hanno riconosciuto, nasce in una ipotesi cosmografica e storiografica complessiva che è di valutazione non tanto della conoscenza moderna quanto della conoscenza che ha radici nella Bibbia. Infatti l'Atlas è solo una parte di questo progetto di descrizione e storia della creazione che Mercatore ha cominciato a realizzare, di cui ha fatto soltanto appunto alcune parti, la cartografia di Tolomeo, la cartografia moderna, ma che doveva essere molto più vasto e avere una struttura che a mio avviso ha un po' le stesse radici culturali del lavoro geografico, ben meno organico, ben meno originale di Guillaume Postel. In ogni caso, e qui finisco, Gerardo Mercatore adotta questa idea di uno stretto di Anian che... No, come sono finita qua? Di uno stretto di Anian che viene ipotizzato dal Gastaldi nel 60 e che salva un po' tutte le ipotesi. No, scusate, questa non ho tempo di illustrarle. Queste sono una serie di carte che tacciono sull'argomento stretto, eccetera. Questa è una carta di Münster che accetta l'idea, in fondo, sembra accettare l'idea che... vedete Cattigara sulla costa del Perù, che il nuovo mondo sia la parte estrema dell'Asia secondo Tolomeo, però la rappresenta separata. Poi ci sono, questa è la carta di Mercatore, in cui già nel 1538 Mercatore rappresenta il nuovo e vecchio mondo decisamente separati. Mercatore ha sempre pensato che fossero separati il nuovo e il vecchio mondo. Discende da Waldseemüller la sua cartografia, anche se aggiornata, eccetera, dal primo tipo di Waldseemüller. Mercatore rappresenta uno stretto che chiamerà anche lui nella sua carta del 69, che qui non ho purtroppo, stretto di Anian, e che è anch'esso un'invenzione di Giacomo Gastaldi, il quale proprio negli anni 60, all'inizio degli anni 60, taglia il suo ponte continentale con un stretto molto sottile, però a latitudini abbastanza basse. Lo stretto che chiama Anian da una lettura, da una cattiva lettura di Marco Polo. Anian è l'Annam, l'Indocina. Sono gli anni in cui Ramusio commenta Marco Polo dopo essersi reso conto che non è un libro di favole, ma un testo serio, eccetera. È una teoria questa di Anian che mette insieme un po' tutte le, concilia un po' tutte le possibili ipotesi, nel senso che Asia e America restano comunque vicinissime. La separazione con uno stretto è paragonabile, in realtà è uno stretto appunto molto sottile, a quello che si potrebbe fare tagliando lo strilistmo di Suez dal Mar Rosso all'Africa. Cioè, di fatto l'America è una specie di sta all'Asia come l'Africa sta all'Asia una volta che si sia tagliato il canale. Quindi non è attraversabile, quindi facilmente anche dagli animali, non comporta grossi problemi per la occupazione umana post diluvio, e concilia anche però le opinioni di Mercatore con quelle di con le opinioni di coloro che sostengono il ponte continentale, e permette anche di assumere Marco Polo, veneziano, tra i grandi della geografia. È un modello elaborato non a caso a Venezia. E questa possibilità di compromesso piace moltissimo, viene adottata immediatamente, la adotta Ortelio, l'abbiamo visto nella carta, lo stretto già nella carta della Tartaria, e lo si ritrova nella carta, nel Tibus Orbis Terrarum che apre il Teatrum del 1570. L'adotta il toponimo, anzi il coronimo, anche Mercatore nella carta del 69, la carta marina, e da queste carte poi lo stretto, a volte col nome Anian, poi il nome sparisce, ma lo stretto rimane e poi si perpetua in tutta la cartografia. Non che il ponte continentale sparisca del tutto, lo troviamo ancora in carte fino alla fine del Cinquecento, carte italiane soltanto. Ma diventa sempre più rara e poi scompare questa fattezza particolare. C'è anche da tener conto di una cosa per valutare la fortuna di questa ipotesi di stretto, ed è che questa ipotesi permetteva di immaginare un passaggio a nord-ovest, un passaggio, quel passaggio che nella fine degli ultimi decenni del secolo gli inglesi stanno già cercando a nord del continente americano per arrivare nel Pacifico. E molto spesso la cartografia di questo secolo tiene conto, per favorirle, per renderne immaginabile la realizzazione, di una serie di esigenze anche economiche o strategiche, che vengono quindi rappresentate come fisicamente giustificabili. E così con Anian, che diventa Anian Regio nella carta di Mercatore, che si sposta più a settentrione nella carta di Hondius, e quindi emigra, ma che rimane come ipotesi e come coronimo a lungo nelle carte, con Anian si modella una parte del mondo che mantiene poi più o meno queste caratteristiche per un paio di secoli. Nuovo mondo molto vicino all'antico ma separato a latitudini molto settentrionali, ed è quel modello che poi i viaggi di Bering del tutto casualmente stabiliranno nel 1722 essere quello esatto. Grazie. Scusate la lunghezza. Grazie. ringraziamento a Marika Milanesi sia particolarmente forte e cordiale, perché non soltanto ci ha fatto vedere dei documenti molto belli, ma perché credo che abbia proprio centrato il tema della settimana che vorremmo seguire, cioè il modo in cui le conoscenze, i desideri si incontrano nell'appropriazione del nuovo. Allora le carte, con questo aspetto di scommessa sulla conoscenza per la parte che non è conosciuta, sono delle cristallizzazioni del noto e delle scommesse sull'ignoto. In questo senso è stata una lezione veramente affascinante. E penso che ci saranno molti, molti interventi. E diamo la parola a chi vuole chiarimenti o vuol fare osservazioni. E forse è possibile che comincio io. Questioni di dettaglio, primariamente, come era possibile di falsificare l'identificazione di Messico di Tenochtitlan con Kinsay? Con calcolo di longitudine, perché penso che calcoli esatti di longitudine non erano possibili avanti il 700, prima questione. Seconda, molto semplice, dove si trova nella Bibbia quella parola Azeroth? E finalmente, acusticamente, non era possibile di seguire sua esplicazione sull'origine della parola Anya, è una derivazione di Marco Polo, ma non ho capito più. Sì. Posso rispondere subito? Dunque, cominciamo dal fondo, è più facile. Anyan è Annam. Annam. Annam, sì. Regione indocinese. Si trova nella versione ramusiana del testo di Marco Polo, pubblicata nelle Navigazioni e Viaggi, secondo volume, 1559, ma preparata intorno al 1553. Poi, se crede, le do l'appunto. Se desidera, le faccio un appunto su queste cose. Glielo scrivo, se vuole. Poi Arsaret, dunque, anche di questo posso darle la collocazione esatta. Uno è nei libri di Esdra, quindi pseudo, diciamo, i libri marginali, diciamo così, quelli su cui non si è certi se facciano parte o no, si discute nel 500 se facciano o no parte del corpo biblico. L'altra però è nel Deuteronomio, ce ne sono due. Deuteronomio. Sono Esdra e Deuteronomio. La terza questione, è vero, la longitudine non si può calcolare con precisione nel 500. Infatti in questo caso non si tratta di un calcolo preciso, si tratta di una approssimazione. Però diciamo che 90 gradi di longitudine, cioè un quarto della complessiva longitudine terrestre, sono una quantità perfettamente valutabile anche nel 500. Siccome i navigatori, coloro che sono andati nel Nuovo Mondo nel 1500, negli anni 20, hanno stabilito che all'incirca Tenochtitlan si trova a 90 gradi dalle Canarie, 90 gradi a ovest delle Canarie, ed è una misura quasi giusta, è evidente che l'ipotesi di Foppel viene immediatamente smentita sulla base di questa osservazione. Poi naturalmente l'errore è di qualche grado, può essere invece di 90 gradi, possono essere 93 o 88, ma diciamo che un errore di più di circa 5 gradi sono già un errore abbastanza notevole in quest'epoca. Soprattutto sulla terraferma e là dove sia stato possibile osservare eclissi o congiunzioni, quindi sia state possibili delle osservazioni diciamo abbastanza accurate. È molto più difficile misurare la longitudine in mare naturalmente, ma in questo caso si tratta di terra. Sì. cristiani e si può parlare con gli Mi chiamo Giovanna Ferrari. Volevo sapere, visto che le esplorazioni verso nord sono comunque state abbastanza limitate fino al Settecento, non ci sono stati problemi per la delimitazione dei confini fra Europa e Nuovo Mondo a nord? Si è dato per scontato comunque che fossero separati? Posso farvi vedere ancora una carta? Grazie. Sono contenta che abbia sollevato questo problema perché avevo tagliato il discorso per non dilungarmi ulteriormente. Ma c'è proprio una carta che illustra esattamente. Ecco, è questa. Massimo, è questa? Non riesco a vedere niente. Ecco, questa è una carta pubblicata nel 1548 a Venezia, nella stampa della Geografia di Tolomeo in italiano, fatta dal Pedrezzano, la traduzione di Mattioli, del medico Mattioli che è sepolto qui a Trento, e traduttore di Dioscoride, e la carta è di Gastaldi, probabilmente, anzi quasi certamente. Questa carta riflette una opinione, appunto, di quelle che abbastanza raramente, va detto, venivano formulate in questo periodo sulla possibile congiunzione tra Nord America, chiamiamolo così per comodità, e Nord dell'Europa. In questo caso abbiamo un doppio ponte continentale. Da un lato un ponte che collega con l'Asia, a latitudini abbastanza basse. Dall'altra, separato dal mare di Verrazzano, che voi vedete qui in collegamento con il polo, con l'Artico invece che con il Pacifico, c'è il ponte continentale che congiunge Norvegia e Russia, l'espressione di Verrazzano stesso, con il Nord America. Questa era una delle ipotesi che negli stessi anni venivano anche, è un'ipotesi che negli stessi anni veniva formulata anche da Ramusio nella sua prefazione ai Viaggi di Magellano. Dice: chissà se c'è anche un collegamento con l'Europa del Nord. C'era già questa opinione in Verrazzano, quindi nel 22-23 si trova nei testi di Verrazzano che Ramusio poi pubblicherà. E quello che non so, non si sa, è da dove venisse in precedenza questa ipotesi, se se nasca in questo momento o se non sia invece, io penso che sia forse così, una derivazione ancora più antica. E esattamente da un'ultima carta, stavolta sul serio, dalle estensioni che, sto sbagliando direzione, dalle estensioni verso settentrione che dell'Ecumene Tolemaica aveva fatto Nicolaus Germanus nella seconda metà del 400, quando aveva rappresentato anche la Scandinavia che non è in Tolomeo. Ecco. Vedete in alto c'è una specie di escrescenza, è l'aggiunta all'Ecumene Tolemaica, si vede? Fatta appunto da Germanus, questa è la terza recensione, mi pare, non riesco a vedere bene, o la seconda, comunque una di quelle con l'aggiunta della Scandinavia. E secondo me, ma è solo un'ipotesi, questa penisola estesa verso settentrione al di fuori dell'Ecumene può aver dato l'idea che poi queste terre continuassero dall'altra parte fino al Nuovo Mondo. È solo un'idea mia, gliela do per come mi è venuta. Comunque sì, c'è anche questa, è molto meno rappresentata però questa idea, rarissimamente anzi rappresentata. Comunque si dava per scontato che fossero separati. Sì, perché esiste tutta anche una, diciamo, una letteratura antica sui confini dell'Europa, no? In Tolomeo Thule è un'isola, non è in terraferma. L'idea è che l'Europa finisse a un certo punto, dove esattamente non si sapeva. C'era una resistenza a mettere l'unione d'Europa e Asia, c'era una tradizione. No, Europa e Asia sono unite, sì, a est, unite, ovviamente. Ma, diciamo, la tendenza a insistere sugli elementi di divisione. Beh, sì, perché c'è una letteratura sui confini proprio, no? Che ovviamente non esiste. Ovviamente per... sono unite, quindi. Sì, ma proprio perché anche a mio avviso la geografia antica si basa su una scansione per continenti, mentre che so, la geografia cinquecentesca tipo Ramusio si basa piuttosto sui, a mio avviso, sui mari e su ciò che si distende intorno ai mari, per dividere le parti del mondo, no? L'antichità ha sempre stabilito i continenti, le masse terrestri come elementi. Il mondo è diviso in Europa, Asia, Africa, le commedie divise, eccetera. E si stabiliscono i confini di ciascuna. E rimane questa abitudine, siccome l'Europa è la meno modificata nelle conoscenze dai viaggi moderni, è quella che mantiene di più la scansione tradizionale, a mio avviso. In effetti il Nord Europa è l'unica area su cui cambino le nozioni, però di solito entro i limiti del possibile il confine è mantenuto, il confine è stabilito dai classici. Ripetuto, l'Europa finisce con il Mar Nero, il mar delle Zabacche, o come lo chiamano, insomma il Mar d'Azov, il corso del Don, i Monti Rifei alle origini del Don. Quando non si parla più di Monti Rifei si parla del tratto di terra tra le origini del Don e il mare Artico, ma si mantengono questi elementi, che tra l'altro escludono la Moscovia dalla... La Scandinavia è molto più complicata perché gli antichi non la nominano per niente, però l'idea è che in qualche modo in genere sia contenuta in questo corpo continentale, almeno questa è l'opinione che mi sono fatta vedendo queste carte. Questo lo sappiamo perché ce lo racconta il cartografo. Una nave turca aveva catturato una nave spagnola con carte, tra l'altro carte del Nuovo Mondo, e c'erano anche c'era a bordo un marinaio di Colombo che aveva informato anche a voce, e credo che sia molto vero perché avete visto, c'è un lungo testo in arabo e riferisce proprio quello che ha raccontato il marinaio e suona perfettamente, diciamo così, plausibile nei termini in cui un marinaio semplice può aver visto l'impresa di Colombo. Colombo che aveva un libro in cui c'era scritto tutto e quando navigava consultava questo libro per sapere dove andare, che secondo me è una bellissima rappresentazione magica del modo di navigare colombiano. E poi racconta alcune vicende che coincidono effettivamente con quelle colombiane, con qualche imperfezione, parla di due navi invece di tre, ma insomma è abbastanza plausibile. E appunto lui racconta di avere, che suo zio ammiraglio, capo pirata secondo gli spagnoli, aveva catturato questa nave con carte sia spagnole che portoghesi, tra cui questa. Tredici. Hanno un interesse per la cartografia forte? I turchi? Sì, abbastanza. Beh, ci sono, come sai, due aree di attività marittima turca in questo periodo. Una è quella mediterranea tradizionale, ed esistono dei portolani del Mediterraneo, tra cui uno proprio di Piri Reis. Ah, tra parentesi, siccome la marineria turca è fatta in gran parte di greci, di italiani, di rinnegati, no? Ma sono soprattutto appunto greci, italiani o anche nordafricani. Non si tratta poi in realtà di una letteratura turca, ma semmai di una letteratura levantina, chiamiamola, e probabilmente usano moltissimo proprio testi portolani italiani, insomma. Questa è una cosa. L'altra area è l'area dell'Oceano Indiano, in cui i turchi entrano in due o tre riprese sostanzialmente, dagli anni 20 agli anni 50 del secolo, poi si attestano sullo Yemen e non si muovono praticamente più. Però c'è tutto il periodo della conquista appunto dello Yemen, del Mar Rosso, del Golfo Persico e delle guerre anche con i portoghesi in India. E lì naturalmente l'interesse per la cartografia è necessariamente molto forte. E penso proprio che ci sono dei trattati di trattati nautici, diciamo, scritti da, ce n'è uno scritto da un ammiraglio turco che ha comandato queste flotte negli anni 40 nell'Oceano Indiano, e lì raccolgono sia informazioni arabe, c'è tutta la marineria araba precedente con la sua letteratura di cui l'ultimo rappresentante è questo Ibn Majid, che scrive un bellissimo trattato di navigazione di alto mare nell'Oceano Indiano a fine 400. Quindi c'è una tradizione araba a cui attingono, e poi c'è la cartografia lusitana, quella portoghese, che quando possono procurarsi accorpano nella propria. Quindi più che una produzione originale, direi che c'è il massimo possibile di appropriazione della cartografia, del resto già ampiamente disponibile. L'unica, esiste una grande carta turca del mondo del 1500 circa 60, forse un po' prima, ma è fatta a Venezia per probabilmente il mercato turco. È una mappa mundi molto bella da vedere, probabilmente un tentativo di speculazione commerciale da parte dei librai veneziani, cui probabilmente non è neanche estraneo il Ramusio, per provare a allargarsi sul mercato turco. Non si sa poi che fine, dal punto di vista commerciale, che fine abbia fatto. Si sono trovati rami, non sembra invece che ci sia una produzione originale locale, diciamo, nella penisola anatolica o comunque nell'impero turco, per quel che ne so io. Ma a parte che gli archivi del Serraglio, sono la biblioteca del Serraglio in particolare, credo che sia ancora abbastanza poco accessibile. Almeno fino a 20 anni fa il cartografo che tentava di lavorarci aveva esperienze molto frustranti, a quanto testimonia Leo Bagro, voglio dire, quindi non so quanto sia stato visto dopo. Mi inserirei nella domanda che ha fatto Renato Mazzolini per tornare un attimo sul documento carta che è stato al centro della tua relazione, mi è sembrata molto bella. Cioè, mi colpiva un'osservazione che tu facevi quando dicevi che chi conosce di persona la flora e la fauna, per esempio gli storici spagnoli, hanno immediatamente la percezione della differenza, e su questo verrebbe voglia di inserire delle considerazioni appunto del tipo che che il mondo si rimpicciolisce per chi lo osserva dall'Europa e tende a unificarlo per il desiderio, per il progetto che imprime al mondo. Ecco. Ma allora mi veniva di chiedermi intanto quante carte continuano a ignorare l'America, perché è stupefacente la quantità di letteratura geografica cinquecentesca in cui ancora il mondo è articolato secondo i tre continenti, e contro ogni evidenza, contro quella che a noi potrebbe sembrare l'evidenza delle informazioni, ci si rifiuta di prendere atto dell'esistenza, radicalmente dell'esistenza del nuovo. Questa è la prima domanda. E l'altra domanda era appunto questa, proprio di tipo generale sul documento cartografico. Queste sono carte, quelle che abbiamo visto sono, mi pare, complessivamente carte che rispondono a esigenze di conoscenza sintetica, di rappresentazione globale, e quindi anche, pensavo per esempio a quella di Arias Montano, quella di strumento di raccordo di conoscenze di altro genere che non sono soltanto geografiche, cioè non sono carte che servono per, o almeno non tutte, ecco, solo alcune di quelle che tu ci hai fatto vedere, direi, sono carte che servono per navigare, conoscere, esplorare. Nessuna. Cioè alcune erano più vicine ai portolani, ecco, erano più assimilabili al documento da usare per la conoscenza. Queste sono carte che hanno un compito orientativo di conoscenza e sintetico, e allora si può forse rispondere alla domanda, si può formulare perlomeno l'ipotesi che qui le rappresentazioni globali, la scommessa, le esigenze di propaganda hanno un gioco molto più forte. Certamente, sono queste tutte, nessuna esclusa direi, carte non d'uso, carte anche quelle che hanno l'aspetto della carta nautica e che lo sono tecnicamente, sono in realtà dei prodotti di una elaborazione, intanto perché sono sintetiche, evidentemente, la carta nautica d'uso ha una scala ben differente. Queste sono visioni d'insieme. E sono anche visioni d'insieme, pensavo a quella di Ribeiro, così poco leggibile, e che rappresenta sì solo l'esistente, però giocando sulle longitudini in realtà in qualche maniera modifica, o meglio sottopone l'intera forma della Terra a una, diciamo così, a una sua speculazione, ecco. Nella fattispecie Ribeiro mette le Molucche in modo tale che possano rientrare nell'emisfero spagnolo. Il problema dell'antiraia era fondamentale proprio per le Molucche, no? In realtà esse fanno parte geograficamente dell'emisfero portoghese, ma bastavano quei pochi gradi di longitudine su cui era così facile giocare per farli entrare invece nell'emisfero spagnolo. Siccome vengono toccate sì, dai portoghesi nel 15, ma da Magellano dai compagni di Magellano nel 22, nasce gli uni occupano Ternate, gli altri occupano Tidore, e a questo punto c'è il problema a chi vadano. Poi non vanno nessuno perché non sono raggiungibili, ma questo è un altro discorso. Comunque sono anche quelle, quindi sono anche le più apparentemente neutre, sono carte in realtà modificate, proprio quella di Ribeiro. Le altre sono tutte elaborazioni a tavolino. Le carte nautiche originali non le abbiamo, semplicemente sono sparite per l'uso, per il segreto, per gli incendi degli archivi e quant'altro. Abbiamo solo qualche caso, pochissimi libri di navigazione con carte portoghesi, che sono fatti effettivamente con carte locali, cioè di zone ridotte e originali, o meglio copiate dagli originali, ma è pochissima cosa e si è tenuta segreta all'epoca, non circolante. C'è il problema naturalmente di tutta la circolazione delle fonti. Quindi sì, certo, questo aspetto di ipotesi è fortissimo. Per ragioni oggettive, cioè perché le fonti in realtà sono notoriamente, dichiaratamente parziali, carenti, eccetera, e anche per ragioni soggettive, perché il cartografo ha sempre qualche cosa in mente nel fare la carta. Quindi non possiamo neanche usare, per esempio, per classificare le carte i soliti sistemi della nautica corografica, oppure anche i sistemi della committenza, perché anche la committenza non è non si riflette però così chiaramente, insomma, sono tutte elaborazioni colte a un livello tale che anche il fatto che siano state fatte per un sovrano o piuttosto per un mercante, eccetera, non si vede immediatamente, non so come dire. Si può trovare se c'è anche questo aspetto, ma non è così semplice. Sono prodotti apparentemente neutri, in realtà totalmente artefatti, diciamo così, e che naturalmente sono lo specchio di una ipotesi, di una cultura, di una religione, quello che cercavo insomma di dimostrare un po' prima, che sono lo specchio di idee. Quanto, scusa, ecco, l'ultima cosa, cioè si collega naturalmente con questo, c'è chi ignora l'America e perché venga ignorata l'America. Beh, credo che qui bisogna però fare una distinzione piuttosto importante. Se, almeno io ho avuto questa impressione studiando il tema, che chi ignora l'America non sia mai interessato direttamente a temi geografici. Di solito questi testi sono testi religiosi o testi didattici, fatti da religiosi normalmente, che trasmettono informazioni standard basate sui classici, per ragioni che io personalmente non ho indagato e non conosco. Nella produzione cartografica o geografica, diciamo, fatta da chi abbia un interesse invece per le cose naturali, mettiamola così, non parliamo ovviamente di interessi scientifici, ma da chi sia un lettore di Plinio, un lettore di Tolomeo, uno studioso di Strabone, eccetera, immediatamente entra anche il nuovo mondo. Io non conosco il mondo religioso del Cinquecento e i suoi problemi anche di informazione, eccetera. Conosco un pochino il mondo degli studiosi di cose naturali, di quella filosofia naturale che comprende anche la geografia, anche la cartografia, anche la matematica, eccetera. E lì il nuovo mondo entra, che io sappia, subito, insomma. E in maniera anche molto articolata, con informazioni più possibili di prima mano. Oddio, va anche detto che in un certo senso si può anche far finta che il nuovo mondo non esista in quanto nuovo mondo, ma poi parlarne in qualche modo come appendice senza chiamarlo quarta pars mundi, senza dargli uno statuto di autonomia totale, eccetera. Si può inserirlo in qualche maniera in questo sistema triadico, o collegandolo direttamente, come si fa nelle carte, col vecchio mondo, o diciamo riducendone il rango, come si fa all'inizio, alla fine del 400, all'inizio del 500, non mi ricordo la data, esce per esempio a Firenze un opuscolo che parla delle scoperte di Colombo come delle isole di Cannaria indiane, che è un bel modo di mettere insieme le due rive dell'oceano, le Canarie e l'India. È arrivato le Canarie indiane, cosa voglia dire esattamente non si sa, perché non c'è nessun riferimento neanche, sono delle isolette disegnate. Ma si può cercare anche di tirarlo dentro in qualche modo in una ipotesi più antica e più riposante, diciamo così. Ultima cosa, non voglio essere prolissa, c'è il fatto che nel Cinquecento non solo c'è il problema del nuovo mondo, ma ci sono ancora da smantellare, almeno in termini di minuta confutazione e di espulsione definitiva dal mondo delle cose naturali, anche una serie di nozioni della Terra che sembrano facilmente superabili e non lo sono tante. Per spiegarmi meglio, qual è uno degli obiettivi principali delle navigazioni e viaggi del Ramusio? Scusa se torno sul Ramusio, ma insomma è un po' casa mia. Uno dei suoi obiettivi principali è ricostruire, rifare le carte del mondo col sistema tolemaico ma con dati nuovi, e va bene, questo è normale. L'altro è confutare definitivamente la teoria di Sacro, espressa, riformulata da Sacro Bosco sulle cinque zone climatiche della Terra. Il fatto che la zona torrida sia inabitabile, che le zone artiche siano inabitabili, che solo le temperate siano abitabili e che ci sia corrispondenza tra la zona temperata nord e quella sud, cioè che a parità quindi di clima, nel senso di latitudine, ci siano uomini bianchi, ricchi e civili. E questo sembra così scontato, è ovvio, in fondo i portoghesi è da metà del 400 che navigano all'equatore, eppure non lo è per niente, tanto è vero che, cioè, diciamo, lo è dal punto di vista sperimentale, sì certo, si può vivere là, c'è gente che ci vive, quindi ma bisogna, come dire, ricostruire, Manzolini puoi aiutarmi sicuramente, io balbetto su queste cose, ma mi sembra che bisogni proprio ricostruire un sistema di interpretazione delle cose naturali che escluda anche di principio, diciamo così, questo tipo di ipotesi che sono i fondamenti della conoscenza della Terra, secondo Sacro Bosco, che è un autore studiato nelle scuole ancora tutto Cinquecento. Magari sostituendoli con Tolomeo, autore antico ma certamente meno erroneo da questo punto di vista. Magari quindi sostituendoli ancora con autori antichi o con Plinio, ma autori che abbiano, di cui sia riconosciuta una maggior fondatezza nell'esperienza, eccetera. Quindi a volte ci si rifà all'antico per confutare un altro antico più dubitoso. E insomma, mi sembra che questo sia un aspetto non tanto sottolineato del problema scoperta. Permettono di rifare i conti con tutto, non un sistema del mondo antico, ma con tanti sistemi del mondo ereditati che convivono, che già si sono scontrati, eccetera, e finalmente si può fare chiarezza e stabilire qual è quello più accettabile, se tra quelli antichi ce n'è uno che sia completamente accettabile. Poi ovviamente a un certo punto si arriva a dire che anche alcuni arrivano a dire che di quelli antichi non è accettabile nessuno, ma in solo per certi campi, eccetera. Io penso che sia anche questo sia un fattore di cui tenere debita considerazione. Dunque, volevo solo osservare una cosa, cioè, mi pare chiaro che la cultura umanistica parteggia per il più antico contro il meno antico, questo è emerso bene. Ecco, mi colpiva comunque una cosa che veniva confermata da queste Canarie indiane che nascono subito sulle imprese di Colombo, cioè vediamo che ci sia, diciamo, questa tendenza a proiettare i desideri sulle carte, questo è evidente, data la natura del documento e la sua funzione centrale nel processo di recezione del nuovo. Ecco, sarà un carattere ovvio, ma mi pare che si debba comunque sottolineare un fatto che dalla tua relazione è emerso, e cioè che nel proiettare questi desideri la cultura dell'epoca li caratterizza con una forte carica di tendenza a unire, a rimpicciolire, che forse non è un dato ovvio, un dato assolutamente ovvio e banale, diciamo. Moltiplicare gli elementi di passaggio fra America e Asia, fra Europa, Asia e America, la stessa reazione di Colombo che rimpicciolisce col desiderio il mondo per navigarlo, naturalmente sono tratti che ritroviamo di continuo, ma proprio per il fatto di essere continuamente presenti forse meritano di essere posti come problema, insomma. È assolutamente ovvio che la reazione umana, diciamo, che la reazione degli europei sia questa, non c'è dubbio, ma è assolutamente ovvio che sia sempre stata questa la reazione davanti al nuovo, non lo so, qui ci vorrebbe forse un confronto di esperienze diverse di scoperta del mondo. Io penso soltanto a certe relazioni cinesi, che ho letto ovviamente non in cinese purtroppo, sul resto del mondo, che tendono invece a moltiplicare le distanze, a allontanare, a proiettare all'estremo limite del mondo, appunto il nuovo, perché non si vuole entrare in contatto, cioè c'è una tendenza a unire, a rimpicciolire e a moltiplicare i canali proprio perché c'è questa volontà di controllo globale, ecco, è banale, ecco, no, no. È molto banale, però mi pare un dato che caratterizza tutte queste reazioni. Oddio, forse, non so, probabilmente hai ragione, forse non del tutto. Vorrei, ecco, mettere nel piatto un altro elemento che forse può avere qualche interesse per capire questo discorso. È questo, dici rimpicciolire, unificare e così via. Questo per chi vuole sì salvaguardare l'unità delle ecumene, però non tutti vogliono salvaguardare l'unità delle ecumene. Anzi, la poliecumenicità, chiamiamola così, per alcuni, e non sono irrilevanti, è un'esigenza fortissima. Curiosamente non un'esigenza che nasca da speculazioni di carattere fisico, che so, il problema dell'equilibrio, per esempio, degli elementi acqua-terra, o il problema dell'eventuale squilibrio che in una terra concepita come ferma può portare l'accumularsi del peso dell'elemento più pesante solo in una parte del globo, cose di questo genere. Tutte quelle cose di cui parlava Reynolds in quel suo saggio di 15 anni fa, che era molto interessante, anche se non sono molto d'accordo con lui su tante cose, sulla mutazione epistemologica rapida. Scusatemi. Dicevo che la poliecumenicità è un'esigenza che vedo, che trovo manifestata al di là delle ragioni fisiche che potrebbe avere questa esigenza, giustificare cioè l'equilibrio sostanzialmente della sfera e l'equilibrio degli elementi nella sfera stessa. La trovo invece espressa per motivazioni che non spetta a me ricostruire, ma qualche elemento forse posso riconoscerlo anch'io. Di nuovo il solito Ramusio. Ramusio che esprime poi mezzo secolo di cultura veneziana interessata alle scienze, alle cose della natura, non è un personaggio isolato. Ramusio dice: sono praticamente felice, insomma, che siano state scoperte le nuove terre, e si riferisce e al nuovo mondo e all'eventuale continente meridionale di cui della cui esistenza è convinto, tanto che c'è nelle carte di Gastaldi e crescerà poi in quella del 60. La storia che non ho fatto, ma che andrebbe fatta secondo me un po' accuratamente. Sono felice che ci siano. D'altra parte dice, sono felice perché gli piace l'idea di un mondo pieno di uomini. E dice, d'altra parte era impensabile. Come hanno potuto gli antichi pensare che il sole fosse stato creato per illuminare, riscaldare soltanto una così piccola parte della terra qual è la nostra ecumene, e passasse invece nel suo giro intorno a un deserti, a mari e a mari di deserti, quindi di uomini o troppo freddi o troppo caldi o comunque occupati dalle acque e quindi non abitabili per gli uomini. Era molto più ragionevole pensare che ci fossero tante terre occupate dagli uomini, che non è evidentemente una considerazione fisica, non so come definirla, ma indubbiamente vede la struttura delle relazioni cielo-terra in termini esclusivamente provvidenziali, oltre a rifarsi, a parte che è un'idea di Ficino, scusate, la chiosa, viene dal commento, non so dove venga, ma comunque è un'idea ficiniana, fa parte certamente un po' di questo mito del sole che la cultura europea tra 400 e 500 alimenta e le cui relazioni con Copernico poi sono state sviscerate, non so con quanto frutto e fondamento. Indubbiamente un po' di mito solare c'è anche in lui. E comunque appunto l'idea della poliecumenicità è di questo tipo, provvidenziale, un desiderio, diciamo, degli uomini di essere certi che la terra sia stata creata effettivamente per gli uomini in qualche maniera. Quindi c'è anche questo aspetto, non solo il ripicciolimento, la riconduzione di tutto all'ecumene tradizionale, c'è anche l'altro atteggiamento, che mi sembra proprio l'atteggiamento più di quelli che sono legati alla cultura classica umanistica e che, pur considerando i moderni, come dicevo, superiori agli antichi nella estensione delle conoscenze, considerano tuttavia la sapienza antica comunque un dato di grandissima importanza e il livello di conoscenze antiche molto alto ed eredità importante. L'ultima frase: è più facile trovare riduttori negli ebraisti, diciamo così, negli ebraizzanti, scusate, che negli umanistizzanti. Ich spreche nicht Deutsch. Se qualcuno traduce. Diceva che forse dal punto di vista degli esseri umani era difficile, questo è bloccato, era bloccato ideologicamente. Però concernente l'esperienza della natura, piante nuove e tutto questo sarà una possibilità più facile per un'adattazione al nuovo, differente dal mio. Sì. È chiaro? Non ho capito se è una domanda o sono delle affermazioni. No, è una domanda. Se proprio non volevano, se proprio non potevano, se invece non volevano. Sì. Questa è la domanda. Ma io credo che a volte non volessero e a volte non potessero, ma gli elementi per riconoscere la differenza, come diceva il Signore, di animali e piante erano perfettamente presenti, e in effetti è proprio un testo molto precoce, quello di Oviedo del 1526, che sulla base di uno studio molto accurato e condotto in termini pliniani, rigorosamente pliniani e con Plinio sotto gli occhi, permette a Oviedo di essere certo che il nuovo mondo è differente dal vecchio mondo. Il problema, in effetti, sono gli uomini, come lei diceva, il fatto che gli uomini non sono legittimamente riconducibili a ceppi differenti, se non appunto attraverso, credo, affermazioni sostanzialmente eretiche. E quindi il cosmografo che non vuole, in realtà non può per ragioni non geografiche, ma per altre ragioni, che però non sono solo quelle del divieto. Ci sono anche le ragioni della sua cultura, che sono, credo, almeno altrettanto importanti. Mi scusi, se ho capito bene. Della domanda, no? La clientela, forse il cosmografo risponde a una. Ma però a causa della domanda. Vendere i libri e le carte. Beh, il pubblico era molto aperto, direi, alle possibilità differenti. Io non lo so onestamente quanto il contenuto incidesse, magari qualcuno di voi lo sa meglio di me e me lo può dire, se cioè una tesi più eterodossa facesse vendere meno, anche perché in temi geografici non esiste nessun divieto, perché per quanto io ne sappia, che abbia un peso nel divieto, diciamo, canonico. Voglio dire, gli antipodi sono immediatamente glissati, nessuno se ne occupa più dall'inizio del Cinquecento. Il fatto che Sant'Agostino e Lattanzio abbiano dei problemi in proposito è un problema di Sant'Agostino e di Lattanzio. Questo, a parte che lo dice già Figliastre un secolo prima, ma non mi risulta che abbia mai dato alcun fastidio a nessuno dal punto di vista della Chiesa, a parte che la Chiesa nella prima metà del Quattrocento non ha opinioni, che io sappia, fisse su nessun tema geografico, mi pare, e quindi non si pronuncia, no? Non mi sembra che ci siano. Sì, però non, appunto, i problemi nascono quando si entra in certi temi particolari. Basta però che un autore non li affronti all'interno, voglio dire, anche di una trattatistica su un paese lontano, basta che faccia finta di niente sul problema specifico e a quel punto il contenuto non interessa più. Intorno al 1550 vengono messi all'indice molti cosmografi, questo sì, ma è perché sono dei cosmografi protestanti. Münster, Grinneus, non sono sicura, sicuramente Konrad Gessner e chi altro adesso non ricordo. E c'è proprio una protesta dei librai di Venezia contro il primo indice del 1548, se non ricordo male, che dice: ma questi autori noi li vendiamo come cosmografi e come tali sono assolutamente neutri e innocui. Non capiamo perché bisogna tenere all'indice tutte le loro opere, compreso quelle cosmografiche, mentre i loro testi da proibire semmai sono altri di carattere teologico. La cosmografia e la geografia mi pare siano viste sostanzialmente come neutre, non capaci di ferire le idee, il corpo della Chiesa, insomma, e quindi non imputabili. Mi trovo queste frage, se li incontrano o vogliono, das führt zum Problem, das des Titels unseres Seminars. Hier wird gesprochen von Bewusstsein oder Coscienza. Der Italiener und der Deutsche. Wer war die Italiener? Wer waren die Deutschen? Wer war das Bewusstsein der Italiener und der Deutschen? Cosa era la coscienza degli italiani e dei tedeschi? Ricordo soltanto il fatto che se non fosse stato scritto nel 500, si potrebbe anche dire l'entrata nella coscienza degli italiani e dei tedeschi avviene in quel periodo che Paul Hazard ha chiamato la Christ, la conscience europea. Tanto chiama in questo momento soltanto entra nella coscienza europea, dopo che le guerre di religione sono finite, eccetera, che si va, ritornano certe idee del primo 500, solo adesso, in quel periodo post-cartesiano, entra nella coscienza degli europei. In genere, la storia messicana, la storia cinese, eccetera, prima non si può perché non si vuole, e dura ancora tanto tempo fino ai nostri tempi. Per esempio, se ricordo in prigionia un'esperienza molto interessante in prigionia in America, dove erano tutti i giovani con me, i giovani parroci, futuri anche sovrintendente, uno protestante, e veniva uno rappresentante dei vecchi luterani e diceva: voi dovete ricordarvi che ogni parola della Sacra Scrittura è vera. Allora un giovane studente protestante di teologo, futuro parroco, dice: ma c'è nella Bibbia che la lepre rimugina, da sta base wiederkommt. Wir wissen heute, dass der Hase nicht wiederkommt. Darauf sagt dieser mit einem Chevrolet gekommene amerikanische Militäroffizier, ein Lutheraner, sagt: wenn in der Bibel steht, dass der Hase wiederkommt, dann hat er zumindest zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, wiedergekommen. In questo momento, quando è stata scritta la Bibbia, la lepre ha rimuginato. E questa idea esiste ancora da molti, questo è un problema che è ancora aperto adesso. C'è ancora molti che dicono: in fondo, questo ricca affidamento è soltanto la entrata della, delle scoperte d'America che avviene nella coscienza comune e avviene soltanto intorno ai 1000 ebrei, in genere tra il 1685 e il 1715, come diceva Asari. E qui c'è un problema che esiste ancora, che viene ancora nel caso tra i lei, eccetera, eccetera, fino adesso. E così a Venezia si ha questo talento di dire nello stesso momento